Più che un affronto, perché testimonia, come abbiamo scritto nel comunicato che abbiamo pubblicato, che in realtà chi si chiede quanto fascismo c'è nel post-fascismo si è vista servita la risposta. Noi diciamo che ce n'è molto della peggiore specie, i sintomi sono ormai molti e chiarissimi. Prima c'è stato il delirante rigurgito xenofobo degli uomini chiamati a governare il paese, poi l'infame lettera intrisa del più becero anticomunismo del ministro della pubblica istruzione, inviato a tutti gli studenti italiani. Cioè, quello che abbiamo scritto è che come sugheri stanno tornando a galla tutte le brutture dell'armamentario identitario del regime nero. Adesso accade che una sezione cittadina dei Fratelli d'Italia viene intitolata a Pino Rauti, ma ce n'è anche una seconda subito dopo, intitolata al sodale di Pino Rauti, Giorgio Almirante. Allora, noi la cosa che vorremmo fare in modo molto chiaro è ricordare chi fosse Pino Rauti. Pino Rauti, abbiamo scritto, è colui che si arruolò volontario nella Repubblica Sociale Italiana, fu inquadrato nella Guardia Nazionale Repubblicana, che fu una delle squadre di torturatori che si distinsero nella più brutale repressione partigiana, fu un seguace di Julius Evola, antisemita, autore di teoria della difesa della razza, poi più tardi ruppe da destra col movimento sociale per fondare l'organizzazione squadristica di Ordine Nuovo e poi ancora nel maggio del 65 partecipa attivamente al famoso convegno sulla guerra rivoluzionaria all'Hotel Parco dei Principi, finanziato dallo Stato Maggiore dell'Esercito, che si trattò di un raduno di fascisti, di imprenditori, di cariche dello Stato, finalizzato all'organizzazione della guerra non convenzionale contro, così si disse, la penetrazione comunista in Italia, che anticipò i tentativi di colpo di Stato del generale De Lorenzo, di Julio Valerio Borghese e poi infine la ciliegina sulla torta, se così può essere definita. Rauti verrà incriminato per gli attentati ai treni dell'8 e 9 agosto 69, per la strage di Piazza Fontana e le sue gesta continuarono senza sosta. Fu inquisito per la strage di Piazza della Loggia a Brescia e il 15 maggio 2008 rinviato a giudizio. Poi, come si sa, il pubblico ministero Roberto De Martino ne chiese sì l'assoluzione per non avere materialmente commesso il fatto, pur riconoscendo esplicitamente la sua responsabilità morale nell'attentato. Ecco di chi stiamo parlando. Quindi è evidente la risposta, è lo sdoganamento di tutto il marcio di Salò e questo è il tratto distintivo della nuova era, questo abbiamo scritto, che si sta aprendo sotto l'egida del governo Meloni. L'iniziativa che noi facciamo serve anche a ricordare una cosa molto precisa, che la dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione, quella che dice esplicitamente che è vietata sotto qualsiasi forma la ricostruzione del disciolto partito fascista, ricordiamo che è ancora valida e che spetta tutti i cittadini e le cittadine della Repubblica Democratica nata dalla Resistenza di farla rispettare, senza se e senza ma. Per questo che chiedete proprio la chiusura di questo circolo? Chiediamo la chiusura del circolo, perché è un circolo che non solo è intestato a questi lugubri personaggi, ma la cui rinominazione viene indicata come prolungamento di quel tratto identitario, cioè loro dicono noi siamo fascisti e quindi bisogna chiuderli.